L'evento finale di Voci 2018 ha per titolo Il gran lupo cattivo. Si è scelto questo titolo ironico per ammorbidire chiaramente questo tema così forte quale la legislazione razzista, ma soprattutto quello che è accaduto dopo l'abrogazione della legislazione razzista riguarda i nostri tempi. Il gran lupo cattivo è l'evento che il 25 aprile si svolgerà dalle ore 16:30 fino alle 20:30 in una zona della città compresa tra via Finzi, la sinagoga e via Gombrutti. Si accederà all'evento dal voltone di via Porta Nuova, dove il pubblico potrà accedere scaglionato in piccoli gruppi all'interno di via Finzi, da qui passare all'interno delle sinagoghe e uscire quindi in via dei Gombrutti. Parla di 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali, parla di responsabilità che il nostro paese ha assunto in prima persona 80 anni fa nei confronti di cittadini italiani che semplicemente avevano la colpa di essere nati ebrei, per tale motivo espulsi dalle scuole, allontanati dall'insegnamento, dai luoghi di lavoro, e questo da un giorno all'altro. Se oggi siamo qui a trasferire questo ricordo, questa condizione, che comunque è una condizione sociale che ci appartiene profondamente, e lo facciamo attraverso questa manifestazione che il 25 aprile si svolgerà nei luoghi ebraici della nostra città, è proprio perché si è deciso di allargare, ospitare la cittadinanza intera a entrare nei luoghi della Bologna ebraica. Questo proprio perché si possa allontanare quell'atteggiamento di indifferenza che 80 anni fa ha permesso anche nel nostro paese quella condizione, quella situazione sociale di allontanamento delle persone dalle loro condizioni più naturali e normali di quotidianità.